Cercavo il mio posto nel mondo come chi cerca parcheggio, come chi cerca la verità. Ma io posso fare meglio certi giorni, lo so. Sono uno stronzo, baby, ci sto ancora lavorando, yeah. E se hai voglia, yeah, compro un volo e ti ci porto a Barcellona. Panorami che non ho ancora visto, yeah. Posti dove siamo soli e la mente vola. Sensazioni che non ho mai sentito, ma tu vuoi sentirmi? Siamo a mille mila metri dagli spiriti, dalle guardie, yeah. Vuoi fumare in pace, fai due tiri, metti quelli sbatti via da parte, perché lo sai che la prendo come viene, certe sere se ti penso lontana dal muretto dove ci siamo conosciuti, ora che si è a letto nel tuo appartamento a Barcellona, dove ci siamo conosciuti, dove ci siamo lasciati. È lì che ho perso la testa per te, è lì che ho perso la testa. Dove ci siamo conosciuti, dove ci siamo lasciati. È lì che ho perso la testa per te, è lì che ho perso la testa, yeah. È lì che ho perso la testa per te, ho perso la testa da un po'. E lo so, ho dato il peggio di me, ma non era ciò che volevo. La canzone giusta per ricominciare tutto, per rifarlo un'altra volta. Serve sentirne il gusto. Ma allora, baby girl, non mi dire no, non dire che vai via. Dopo tutto quello che mi hai detto, quello che mi hai promesso, nel tuo appartamento a Barcellona, dove ci siamo conosciuti, dove ci siamo lasciati. È lì che ho perso la testa per te, è lì che ho perso la testa.